Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buonasera da Gilles Facchinelli e benvenuti a Rock Wave Live, Io mi racconto. Siamo arrivati alla decima puntata delle nostre interviste. Questa sera entriamo nel mondo della musica rock made in Italy con un musicista che non è più una promessa tra la musica emergente, ma bensì una realtà della musica italiana. A Rock Wave Live Io mi racconto questa sera ho il piacere di dare il benvenuto ad Andrea Salini. Ciao Andrea, benvenuto tra noi. Ciao, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Cooperativa. È un piacere essere qui con voi. Ecco, è un piacere anche nostro, carissimo Andrea, e prima di tutto ti ringrazio perché hai affrontato un lungo viaggio, dopo diremo un po' da dove vieni per essere qui con noi questa sera. È piacere di sentire la tua voce, ma soprattutto anche la tua musica, perché sei qui per questo questa sera. Allora, vogliamo presentarti un attimino, Andrea. Tu sei reatino e precisamente da Petrella Santo. Esatto, un paesino sull'Appennino laziale, in provincia di Rieti, ai confini con l'Abruzzo, diciamo. Che io sono andato a vedere, è un bel borgo, piccolo, sì. 1150 abitanti, ma un bel borgo che tra l'altro non viene escluso dalla tua musica, perché lì è proprio un tuo luogo creativo, no? Assolutamente, quello è un posto in cui io vivo per scelta, vivo lì ormai da tantissimi anni, perché in realtà io sono nato a Roma nel 77 nel quartiere di Trastevere, perché mio padre all'epoca lavorava vicino Roma e quindi la mia famiglia si spostava come molte in base al lavoro del papà. Quando abbiamo avuto modo, quindi dalla fine degli anni 80, ci siamo ritrasferiti lì con gioia, e quello è l'habitat, a mio avviso, più indicato per un artista: la quiete delle montagne, il lago, un borgo medievale bellissimo, esposto al sole tutto il giorno, con grandi faggete, boschi di alberi secolari, le montagne, insomma un posto molto evocativo. È un paese che si sta un po' spopolando, però mi sbaglio, perché io mi sono segnato qua, aveva 5.262 abitanti nel 31, poi sono diventati 1.150 nel 2018, quindi veramente... Ti dirò di più, Giz, quello è un numero riferito alle 14 frazioni, non necessariamente al paese Petrella Santo in sé, sì, che ne conta circa 300. Ahimè, il centro Italia e i piccoli paesi di provincia hanno subito uno spopolamento fortissimo, per quanto riguarda la mia di memoria, dalla metà degli anni Ottanta, quindi un po' un flusso verso le città più o meno grandi per il lavoro. C'è in realtà un ritorno, eh? Petrella ha avuto negli ultimi, non voglio dirti una cavolata, però c'è una quindicina di residenti che sono arrivati per scelta, e quindi... E poi il paradosso è che lì potremmo vivere tutti bene di turismo biologico e quant'altro, perché comunque Petrella Santo c'è anche una storia legata alla vicenda di Beatrice Cenci, che nel 500 è stato uno dei processi più seguiti, è stata una storia un po' cruenta di questo parricidio, quindi il castello di Colonna, c'è la storia, c'è la natura, potremmo stare tutti bene, insomma. Io riesco a viverci bene insieme a mia moglie e spero di poter continuare a vivere, perché la qualità della vita è alta. Certo che i servizi e le infrastrutture si spostano alla vicina Rieti, che il paese può offrire, insomma, immaginiamoci un paese di 300 abitanti dove tutti si conoscono, c'è il bar, c'è un piccolo genere alimentare, la farmacia, insomma. È una realtà molto molto diversa dalla quotidianità di un ragazzo che ne so, un mio collega di Padova, insomma, sì. Città con università, mille eventi, è diverso, devi saperci vivere, insomma. E io direi di entrare un po' nella tua musica adesso, Andrea. Tu sei autore, compositore e appunto esecutore della tua musica, no? Sì, senz'altro, almeno per i primi due album ho scritto sia le liriche che la musica. L'ultimo album mi ha dato un po' una mano per la musica anche il direttore artistico Simone Gellorenzi, che ringrazio per il suo lavoro. Però sì, fondamentalmente sì, riesco da solo a comporre al 99% quello che mi riguarda. Certo. Quindi c'è un lavoro duplice, parlavamo prima a microfoni spenti del fatto del leggere, cercare idee per quanto riguarda la stesura dei testi, quindi libri, romanzi, poesia, tutto quello che riguarda la letteratura, e per quanto riguarda la musica, attingere da varie fonti, vari generi. Quindi è un lavoro, però diciamo, non è un lavoro se è una passione, se è la tua vita, se ti riguarda da vicino sempre. Quindi. Però sì, la risposta alla tua domanda è quella. Sì, ti chiedo una cosa senza fare tutta la storia di quando hai iniziato da piccolo, eccetera, però uno che ti ha dato, che ti ha spinto proprio verso la musica è stato tuo fratello, no? Sì, sì. Devo dire che avendo un fratello 6 anni più grande di me, quando lui usciva io di soppiatto andavo ad ascoltare le sue cassette, che erano quelle di Bruce Springsteen, di Dire Straits. All'epoca c'erano le cassette. Io l'epoca del vinile me la ricordo vagamente, nel senso che eravamo piccolini e non potevi toccare i vinili, perché sono oggetti delicati. Quindi noi abbiamo vissuto l'epoca delle cassette che riavvolgivamo con la matita per risparmiare le pile del Walkman. E quindi sì, sicuramente una figura che mi ha spinto, che mi ha pure convinto poi nel tempo a fare questo lavoro, perché io all'inizio volevo suonare solo la chitarra, invece lui insieme a Marino Severini, leader dei Gang, un'altra figura che mi ha fatto capire che avrei potuto scrivere delle cose mie, insomma, anche canzoni proprio complete. Fino ad oggi tu hai inciso 3 album. Nel 2010 hai Dottor Hyde e Mr. Hyde, non è un errore perché si chiama proprio così. Si chiama così, è voluto. Nel 2012 incidi Maestrale. Sì. E infine nel 2017 arriva Lampogatto. Esattamente. Allora, è stato un lungo percorso, quindi iniziato alcuni anni fa. Eh sì, ormai ci avviciniamo a una decade. Diciamo che il primo album io l'ho considerato come una tesi, perché avevo da poco ultimato gli studi presso l'Università della Musica di Roma, che all'epoca era una scuola molto molto importante per questo genere di musica. E lì ho riversato tutto quello che avevo imparato, metabolizzato, e era un disco che io considero un po' un concept album, perché varie forme di rock classico, rock folk, e comunque un album dedicato proprio ai Gang. Marino Severini è ospite in una strofa che io ho scritto per lui, c'è la chitarra di Sandro in un paio di brani, sia il solo della canzone del lupo, sia una chitarra con il tremolo su Fight After Fight. Quindi è stato un banco di prova. Mi ricordo che all'epoca fu recensito come su Buscadero, quindi fu una cosa che, tra l'altro, Buscadero, ricordiamolo, cos'è magari. Buscadero è una rivista di musica che esiste da tantissimi anni, forse la più specializzata, e io veni a conoscenza di questa notizia da il nostro amico Alberto Prisco, che ringrazio, e mi disse: ho letto la tua recensione su Buscadero. Io, fingendomi consapevole, dissi: ah sì sì sì. E invece, quando poi ho messo giù il telefono, sono corso alla prima edicola e ne ho comprate una decina di copie per gli eventuali nipoti. E quindi sì, il primo album è stato una sorta di tesi, via, diciamo così. Ecco, Alberto, che è arrivato adesso, gli apriremo il microfono. Lui non è molto convinto, non è molto contento che io gli apra il microfono, però puntualmente lo faccio. Allora, do il benvenuto ad Alberto Prisco. Per chi non lo conosce, collabora con un importantissimo per me collaboratore per questo programma, e ogni tanto gli dico: vieni con me, perché ho piacere che gli ascoltatori sentano anche la tua voce. E poi un motivo in più, perché con Andrea hai un legame musicale da qualche anno. È tutto, no? Vero quello che ha detto Andrea. Intanto buonasera a tutti. Io ho letto questa recensione casualmente qualche anno fa del primo album di Andrea. L'ho contattato e gli ho detto: mi piacerebbe sentire la tua musica, eccetera eccetera. Lui mi ha detto sì sì, come ha già raccontato lui. Dopo in realtà si è andato a comprare il giornale, e dopo da lì è nata questa amicizia a distanza che si è diciamo, consolidata nel corso degli anni. Infatti l'abbiamo ospitato varie volte in altre emittenti. Quante volte andrà? 3, 4? 4. Abbiamo fatto tutti e tre gli album e la retrospettiva su Hendrix. Su serata memorabile. Ci sono le pareti dell'ex Blu Radio Veneto che ancora tremano da quella serata di Hendrix, perché le batterie che... E la chitarra di Andrea. Beh, che andava alla grande. L'ampo gamma non è che sia di meno, comunque, come sonorità. Beh, forse in quel periodo lì avevamo dei volumi ancora più importanti, ma ci torneremo, insomma. Certo, volentieri. Abbiamo sfiorato l'incivilimento, ma torneremo. Tra l'altro l'ultimo pezzo di Lampo Gamma lo uso come sigla finale, gliel'ho detto ad Andrea, della mia trasmissione, certo, che è il mercoledì, lo ricordiamo, dalle 19 alle 20:30. Poi lo ricordiamo, ma vai in onda anche il tuo spot comunque. No, dopo, lo so. Lo metto sempre, lo sai, no? Anche io metto il tuo. Lo so. Io, Alberto, direi di passare, far suonare un po' la chitarra di Andrea, perché alcuni brani verranno suonati live in acustico e un paio di brani li faremo ascoltare anche da CD, perché sarebbe un po' complicato farlo sentire live. Cosa ci ascoltiamo in acustico? Come ascoltiamo Canzone per il lupo, che è un brano a cui io sono molto molto legato, per questa figura così forte. Per i nativi americani era il saggio, era colui che poteva indicare la soglia per la saggezza. Quindi poi magari racconteremo altri aneddoti legati ai lupi veri che abbiamo incontrato nella nostra terra. Comunque è una canzone che ci ha portato fortuna e a cui siamo molto legati, perché comunque parla della libertà dell'individuo e è un messaggio forte, specialmente per le nuove generazioni. Radio Cooperativa è per te. Vai, Andrea. Grazie. Ecco l'alba scappa. va via. Ecco l'uomo la follia, ecco il vento porta via la ragione e la poesia, inseguire un'altra scia. Ecco il vento porta via, ecco l'uomo la follia. Rockwave con Alberto Prisco, tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Eccoci qua nuovamente in diretta. Allora, questo brano che abbiamo sentito in acustico, Andrea, in pratica fa parte del tuo primo CD, parlavamo prima. Esattamente, è la prima traccia. All'epoca realizzammo un bel video, per questo ringrazio Marco Cardone, che è un pittore, artista quotato, insomma, adesso anche un tatuatore, artista 360 gradi, che realizzò all'epoca un bellissimo video sul Terminillo, che è la montagna diciamo di Rieti, ma anche un po' di Roma, richiama un posto bellissimo, e abbiamo fatto questo video in cui non si vede mai il lupo. Tanta gente nel tempo ha detto: ma perché non si vede mai il lupo? Perché il lupo non lo vedi. Chi come me vive in zone montane sa che è una figura schiva ed è difficilissimo, certo. Gli avvistamenti spesso riguardano animali che hanno a che fare col meticciato, il lupo vero è difficile vederlo. Oggigiorno sembra diventare tutti gente che riesce a vedere i lupi, no? Riesce a vederlo forse una volta nella vita, mi riferivo a quello. No, io mi immedesimo molto nel lupo come figura, perché è un animale risaputo che ha una vita sociale molto organizzata, certo, molto certo, democratica, pur mantenendo la sua libertà. Certo. Quindi sì, sicuramente è un esempio da seguire. L'uomo potrebbe benissimo, anche perché è fedele alla sua compagna, e è comunque un animale, una figura totemica legata ai nativi americani, alle storie anche della Russia, cioè, tutti i popoli ancestrali hanno questo legame con quella figura saggia, anche se poi in altri frangenti è stato additato come animale diabolico, tutte cavolate, insomma. Poi la comunque, canzone lo dice. Certo, poi comunque torna l'immagine del lupo su un tuo video, ma ne parliamo dopo. Sì, esatto. Due parole veloci su questo CD che hai prodotto. Ripeto, Dottor Hyde e Mr. Hyde è nato proprio dalla spinta di Marino Severini e Sandro Severini. Io li ho incontrati di persona, i gang, era come incontrare proprio il proprio idolo. Li ho incontrati di persone nel 2000, siamo diventati amici, ho assistito a centinaia di loro concerti, siamo diventati amici, e Marino mi diceva: tu devi fare la tua musica. Quindi quest'album è incentrato tutto su quel mondo lì, l'abbiamo registrato con i musicisti che all'epoca facevano parte della band di Ken, con loro stessi. L'ultima strofa che io ho cantato l'avevo scritto proprio per Marino, quella che dice: un padrone mai avrò, perché loro hanno mantenuto un'integrità artistica negli anni, avrebbero potuto, insomma, non sono mai scesi a compromessi, sono un po' i lupi del rock anche loro. Io ho imparato tanto da loro, tantissimo. E quindi sì, un album folk rock che ha strizzato l'occhio un po' a Bob Dylan, un po' a Chuck Berry. Non a caso c'erano 7 tracce, c'è Mamma Roma, perché tu, non so se tu l'hai notato, Gil, ma ogni mia produzione finisce con un brano strumentale che porta il nome, sì, di una pellicola famosa. Sì. Per Dottor Hyde mi sarebbe stato Mamma Roma, perché comunque nelle tantissime serate trascorse con i gang si è parlato di Pasolini, della letteratura, di quel mondo lì. Quindi quell'album è proprio, certo, pregno di questo. Registrato da Fabio Verdini, che all'epoca tastierista dei gang, adesso in forze nei Tiro Mancino, artista eccelso, insomma. È stata una fase della mia vita che io porto con me nel cuore e dalla, certo, quale mi sono discostato per esigenze chitarristiche, non per altro. Quello che ascolto nel quotidiano va dai Gang a Gabriella Ferri, a De Gregoria, a... parlavamo prima delle Orme, il Banco del Mutuo Soccorso, De André, a fusion, jazz rock, sono curiosissimo. Quindi, seguendo comunque Hendrix, uno dei primi brani che io ho imparato è stato Hey Joe. E quindi parallelamente al lavoro, che alle esperienze con i Gang, ho coltivato questa cosa, poi ne possiamo parlare con Alberto. E Lampo Gamma è nato grazie ad Hendrix. Grazie alla... tu dedichi proprio che una canzone alla sua passione per l'astronomia, i fumetti di con temi spaziali, insomma. Passiamo al 2012, entriamo in Maestrale, che in pratica è il CD che ti ha aperto un po' le porte nel panorama musicale, quantomeno italiano. Parliamo un attimo di questo. Maestrale ha avuto una gestazione poco tranquilla, perché comunque riguardo a Dottore De Miseride abbiamo cominciato a usare la parola tour, perché ecco, siamo usciti dalle cantine, dalla sala prove, dal pub sotto casa, siamo usciti dalla nostra provincia, siamo usciti dalla nostra regione, siamo arrivati fino in Veneto, molti concerti. Mentre succedeva questo, io prendevo spunti, mi sentivo molto motivato. Quindi devo dirti che Maestrale è stato l'album più spontaneo rispetto al primo e al terzo. Mi ricordo quando scrissi Il Re del Terrore, che è dedicato a Diabolik, ero in una casetta che avevo in affitto con mia moglie, che ancora non era mia moglie, era una studentessa dell'università, e scrissi quella canzone in 3 o 4 minuti, perché ero un fan del fumetto delle sorelle Giussani, e mi è venuto. Quando lo stato d'animo è in equilibrio è semplice fare questo lavoro, non va forzata l'ispirazione, questo sì. E qui siamo ancora su un album anglofono italiano, possiamo dire, sì, così, no? Sì, anche qui ancora lingua italiana, in inglese, ancora uno strumentale, questa volta On Boy, è un film di Mike Sorensen, un film un po' di nicchia con Mickey Rourke, molto bello, un film e anche un po' impegnato, anche un po' socialmente, sulla scia di Made in Messico, che parlava del Chiapas, del subcomandante Marcos. Quest'album che poi ci ha portato anche all'estero, insomma, la scia di Dr. Hyde e Mr. Hyde aveva lasciato qualcosa, delle tracce, e da lì, con grande impegno, grande determinazione, suonammo prima in Slovacchia e poi 2 date, credo nel 2013 a Londra, la prima a novembre e poi una in estate. Suonammo a East London la prima volta e poi al Field Elbow, che è un locale storico di Camden Town, un locale dove si esibiscono 3 o 4 band a sera. Quindi Maestrale è stato un album importante che io non dimentico, anzi, dal quale... perché uno poi riesce a riattingere anche dalle proprie cose, ti ricordi, adesso parlando con te mi sono reso conto di questa cosa, che è stato l'album che ci ha avuto la gestazione più serena, anche perché capitano dei periodi in cui sei più tranquillo proprio nella quotidianità. Da qui è nato il Maestrale Tour, dove hai fatto ben 80 concerti. Esatto. E vogliamo anche dire con chi la tua band, chi era? All'epoca c'erano i fratelli Stefano e Daniele Tedeschini, e poi c'ero io e c'era, credo, Daniele Rocca alle tastiere. C'era, sì. Perché poi negli anni si sono avvicendati tanti musicisti che io non dimentico, ma fare questo con una certa professionalità è complicato, impatta sulla vita quotidiana in maniera... ed è difficile trascorrere tanto tanto tempo con delle persone, fare chilometri, dormirci, certo, mangiarci, certo. Non è... perché immaginiamo 80 concerti, sono tanti. Che poi sono 80 prove, e quindi... e poi stavamo a un livello in cui salivamo sui palchi importanti, ma dovevamo provvedere anche noi spesso alle nostre amplificazioni, come succede a tutti i musicisti. Quindi è stato un periodo molto bello, anche un po' più inconsciente, devo dirti, perché poi quando arrivi, che un po' la stampa, le riviste... Maestrale, tra l'altro, è stato la recensione fu firmata da Andrea Trevaini, me lo ricordo bene, perché dopo la telefonata con Alberto andai subito, ma era un trafiletto. Invece poi uscì un'intervista proprio con le foto su Chitarre, che era una rivista storica, e poi Lampogamma è arrivato anche su Guitar Club. Quindi magari tu fai un concerto che lo annuncia al TG3, oppure c'è una, la gente viene a vederti con un altro occhio, certo. E tu sei meno spensierato, magari meno birre, più acqua, certo, certo. E meno volume. Certo. E Guitar Club, Club, ricordiamo cos'è, perché Guitar Club è una delle riviste di settore più longeva, credo che esisti dai primi anni 80, insomma, voglio dire cavolate. Buscadero è proprio una rivista che se la leggi devi aver vicino un vocabolario, perché c'è un lessico sì, ricercatissimo. Ecco, Alberto è un, credo sia uno, sì, uno vabbè, che può parlare. Anche Maurizio. Io ci vado in punta di piedi, lo leggo l'estate, perché l'inverno è il tempo, riesco a leggere Guitar Club una volta al mese. È di settore, però sì, è una certo. rivista storica proprio sullo strumento. E a proposito di Buscadero, approfitto per salutare anche Maurizio Calzavara, che assolutamente tu conosci benissimo. Sì, è un grandissimo amico, io ho tantissima stima di lui, di Alberto, perché quando ci incontrammo proprio la prima volta ho trovato terreno fertile, parlammo dei Cavalieri del Re, gente che fa la musica per i cartoni animati, certo. colonne sonore. Ecco, per chi non lo conosce, Maurizio Calzavara, conducevo un programma con lui, sempre anche con la collaborazione di Alberto Prisco, a Blu Radio Veneto, che era un emittente che in pratica dava molto spazio alla musica emergente, che purtroppo ormai non c'è più. Spazio ancora alla musica, Andrea, presentala tu questa canzone, però dopo io vorrei ritornarci un attimo quando hai finito. Assolutamente. Il prossimo brano si chiama Indios e io all'epoca, parliamo del 2010, sentendo il telegiornale, appresi di questa notizia, di questo incidente, questo problema in questa miniera in Cile, dove 33 minatori rimasero per giorni e giorni intrappolati, poi riuscirono, fortunatamente avevano acqua e cibo, riuscirono a ritirarli fuori. I riflettori si accesero un po' sulle vicende anche dei nativi cileni, sugli indiani Mapuche, e io in pochi minuti, anche in questo caso, anzi mi ricordo che avevo scritto la musica a casa e il testo lo scrissi proprio in studio di registrazione insieme a Fabio Verdini in una pausa pranzo, me lo ricordo, mi disse Andrea, trova un testo, e io lì per lì è uscito fuori questa canzone, che tra l'altro ha vinto un premio nazionale, perché la padrona di Rieti, Santa Barbara, è la padrona degli artiglieri, dei pompieri, anche dei minatori, e quindi io insieme ad un regista siciliano che fece un qualcosa su Rosso Malpelo, che adesso non vorrei dirti perché la memoria comincia, cioè, un premio per il suo testo, sì, e quindi sì, per i contenuti, eh? Sì, sì. Quindi Indios era il nomignolo appioppato dai conquistadores ai nativi, e io ho cercato di ridargli un po' lustro, che comunque una canzone è una cosa che in genere fa del bene. Quindi nel mio piccolo, prima parlavamo, non è che uno poi è un esperto antropologo, però certo. gli artisti su una piccola cosa riescono. Ho letto, no, me lo ha raccontato mia moglie, per esempio De Gregori ha scritto La Donna Cannone su un articolo letto in un bar che riguardava una donna che lavorava al circo, così, e ha scritto un brano. Gli artisti sono così. Vai Andrea, Indios. Fronte, figli del Cile. occhi c'è il sole, sangue lungo il confine, dentro gli occhi c'è il sale. Sera, bianca la cera, dormono sole le figlie del Cile, bassa la paga, lunga la pena, forte risorge la terra del Cile. Sangue lungo il confine, contro gli occhi c'è il sole, sangue lungo il confine. Sangue lungo il confine, contro gli occhi c'è il sole. Sangue lungo il confine. Dentro gli occhi c'è il sale. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24 con trasmissioni d'attualità, di cultura ed impegno sociale. Io vorrei farvi vivere il più possibile l'emozione di sentire cantare gli artisti dal vivo. Non è facile, ma ci provo, Andrea. Ci provo anch'io, Gigi. Ecco, allora, in pratica quello che volevo chiederti, ne abbiamo parlato prima, perché era riferito proprio al premio importante che hai avuto per il testo di questa canzone. Sì. Passiamo al 2017. Passiamo al 2017 con Lampo Gamma, che sono 7 pezzi di puro rock. Come Dottor Hyde e Mr. Hyde. Ecco, in cui non manca certo ritmo ed energia, lo sentiremo dopo. Interamente scritto da te, ma insieme anche a un'altra persona. Sì, sì, io nel momento del deposito cautelativo mi sono sentito in maniera naturale di inserire anche il nome di Simone Giallorenzi, che ringrazio e saluto, è stato ed è il mio insegnante, è il direttore artistico di quest'opera, ha suonato diversi strumenti, ha ritoccato alcuni testi insieme a me e ha vestito in maniera talmente marcata questi brani che io gli ho voluto rivendicare comunque una paternità. Cioè io ho portato la canzone che è quella che tu senti, però con un vestito fatto come si deve. Quello è il lavoro che fa il direttore artistico, perché un artista, e non parlo di me, faccio un esempio, per quanto possa essere completo non riesci a fare tutto, a meno non dopo 10 anni di discografia. Quindi io suono la chitarra per scrivere delle canzoni adesso. Prima suonavo la chitarra perché era una cosa che mi emozionava di più. Poi qualcuno, mio fratello Marco, sì, Marino Severini, Sandro Severini, lo stesso Simone Giallorenzi, mi hanno fatto capire che c'era modo di raccontare la storia ancora meglio con un testo, con un progetto, e quindi resta un mezzo per esprimere. Alcune recensioni sul Lampo Gamma hanno detto che era un disco da camera, non so, adesso non mi ricordo bene. A mio avviso è un album molto potente, il titolo stesso con un po' di presunzione aveva la cosa di rivendicare questa, e quindi non ho mai cercato il virtuosismo fino a sé, certo. Ma infatti The Martian è una delle canzoni che io alle quali sono più legato, perché è venuta senza cercare per forza il tecnicismo, ha un impatto, cioè io quando la suono mi emoziono, quindi finché mi emoziono io che l'ho scritta, sto a posto, insomma. Capita, mi è successo nei concerti di dire a gente che si è emozionata sentendola, immagina suonandola con un impianto a 30.000 watt, ed è, quindi è così. Comunque la chitarra resta un mezzo, e la risposta è che un direttore artistico fa la differenza. Ecco, certo, perché io poi ho voluto rivendicare questa, ma probabilmente lo farò anche per il prossimo album. Chi sta suonando con te in questo album? Guarda, adesso proprio in questi giorni l'ultima formazione vedeva alla batteria Marco Condam Stefano, sua moglie Elenia Rossetti, e al basso Daniele Signorino, e alla chitarra Alessandro Nobile, giovanissimo, io chitarra elettrica e voce. Ci sarà una trasformazione perché alcuni di questi ragazzi sono presi da progetti che avevano già e fanno fatica anche a seguire quello mio, quindi probabilmente mi avvarrò dell'aiuto di altri musicisti. Questo è nella musica fatta da professionista, è inevitabile, è fisiologico. Succede che tu, cioè, il turno in fabbrica, ti ammali e il tuo posto lo prende un altro. Certo. Non fa differenza. In Italia purtroppo succede questo: se c'è un artista che un po' ha nelle mani un po' di mestiere, diventa, invece dovrebbe essere un lavoro regolamentato, gestito come tutti gli altri, e così poi viene fuori veramente chi lo fa, chi lo può farlo per passione, quello che dicevamo prima. Sì, certo. Quindi sì, gli ultimi compagni d'avventura, quelli che hanno fatto Sanremo Rock con me, che hanno suonato all'Ariston, che hanno fatto Subiaco Festival, abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo aperto per la vecchia formazione della band di Vasco, Daniele Tedeschi, in Piemonte, insomma palchi importanti, e quelli che ho appena citato. Ne arriveranno altri. Oggi parlavo venendo proprio con un ragazzo che ancora non voglio nominare perché stiamo ancora ragionando su quello che c'è da fare. Da parte mia, io ti ripeto, Gil, non dimentico nessuno delle persone che con me ha viaggiato, ha collaborato, e sì, sono molto sereno e vado avanti per la mia strada, lento e inesorabile, perché purtroppo diciamo, non si può fare diversamente questo momento storico, con la musica che cambia in continuazione, e quindi sono contento. Questo viaggio che ho fatto insieme a Emanuele, che ringrazio, che sta qui con me, ci ha ridato voglia comunque di rimetterci in gioco. Quando torneremo domani riprenderemo di nuovo in mano la chitarra e cercheremo nuove idee. Prima di passare al prossimo brano, che lo prendiamo da CD, così magari anche recuperi, ma sono sicuro che non hai bisogno di recuperare perché li faresti tutti uno dietro l'altro, io volevo parlare anche di un tecnico del suono, perché dovete sapere che dietro anche un grande musicista c'è un grandissimo lavoro e ci sono grandissime collaborazioni. Volevo parlare di Fabrizio Simoncioni. Fabrizio Simoncioni è un artista che non ha bisogno di presentazioni, musicista, tastierista, ingegnere del suono, vincitore di un Grammy, collaborato e ha ripreso il suono per il rock italiano e internazionale. Per casa nostra parliamo di Litfiba, Negrita, Nannini, ha fatto tour con professionisti più blasonati. Aver avuto modo di collaborare con lui per me è stato un motivo di crescita, perché basta stare a contatto un paio di giorni con un musicista di quel genere per imparare tanto, se sei predisposto. E il fatto che abbia voluto mettere il suo nome sul mio album per me è un grande attestato di stima, vuol dire che il lavoro fatto negli anni è cresciuto, si è consolidato. Io lo ringrazio per il suo lavoro, spero di, come per Gian Lorenzi, di poter continuare a lavorare, anche se poi, ti ripeto, la musica fa giri strani, la gente si rincontra dopo anni, quello che succederà, quello che è successo è stato importante per me, è stato bello e formativo. Ci siamo arrivati non come funziona in Italia con le cose, ma crescendo insieme. Lui aveva lavorato al primo album di Simone Gian Lorenzi, e è stata un po' una cosa quasi naturale. Abbiamo aspettato perché era alle prese con l'album dell'Litfiba, quindi c'è stata da parte nostra anche, non ti dico pazienza, però tanto lavoro di preproduzione, nel senso che gli abbiamo portato le tracce, ha fatto i complimenti a Simone tutti a tempo, ha fatto un lavoro, e lui ovviamente ha dato ulteriore risalto a tutto il lavoro. Comunque, tanto per dirvi, per chi non conosce appunto Simoncioni, ha suonato, è stato tecnico del suono, ma ha anche suonato con Ligabue dal 1998 al 2005. Sì, e ha fatto, adesso sta in tour con Litfiba comunque, e ha suonato, ha fatto tour con grandi artisti. presentiamo il primo brano che apre il tuo CD. Esatto, Strange Days. Ecco, allora due parole veloci su questa canzone e poi la facciamo ascoltare. È il brano che si lega di più, quasi un trade union tra i primi due lavori, quindi stile hard rock, un po' abbiamo strizzato un po' l'occhio a Pearl Jam, un brano al femminile volendo, parla dell'ispirazione, è una canzone d'amore. Io l'ho descritta in varie interviste durante questi due anni, anche se in chiave hard rock è un brano che parla di questo sentimento così spiattellato in giro, e nello stesso tempo si riferisce al femminile, anche alla musica, all'ispirazione stessa. Quei giorni strani che ti svegli dopo un concerto, dopo una jam session in cui non si capisce bene dove andrà a finire l'idea che c'è. Sta andando bene adesso. Beh, allora primo entriamo. Singolo. Dimmi. Strange Days. Sta andando. Ha avuto un ritorno di fiamma, è stato il primo singolo. E adesso sta dimostrando il suo valore nel tempo, le varie interviste, recensioni varie, insomma. Allora entriamo nel rock. Thank you. Radio Cooperativa. Allora Andrea, Lampo Gamma è stato recensito come uno dei migliori dischi indipendenti del 2017. Questo te lo aspettavi? No, francamente no, non mi aspettavo. Adesso non vorrei toglierti la parola perché so che sei uno speaker molto scrupoloso che studia, si prepara come Alberto, come Maurizio. Non ci saremmo aspettati neanche che Stephen Marcuse avrebbe lui di mano sua masterizzato il nostro album, invece è successo e tra l'altro noi gli abbiamo anche detto che non andava bene, insomma gli abbiamo rimandato una versione indietro perché era veramente potente, quindi no, tante cose inaspettate, tanti regali da parte della carta stampata, dei siti addetti ai lavori, tanto lavoro anche per oggi, certo. No, parliamo di una gestazione di 5 anni, certo. Un lavoro di preproduzione fatto in maniera, questo grazie ripeto a Gian Lorenzi che ha fatto un lavoro che quando tu proponi un qualcosa di valido poi chi di dovere si sente tranquillo a mettere il proprio nome. Cioè, non è che Marcussen aspettava me, è uno che fa i dischi di Bruce Springsteen, di Rolling Stone, vuole fare una cosa se gli piace, altrimenti ti dice guarda c'è questo che è bravo, fallo da lui, non te lo fa. Ma anche perché penso che sia stata anche una bella novità, perché fare rock in Italia non è così poi cosa... Non solo, in Italia il rock soffre un po', ma poi il rock è tutto in inglese e comunque un rock molto incentrato sulla chitarra è una nicchia nella nicchia, proprio... Sì, quella però è una scelta artistica a cui io non posso rinunciare, insomma. Io ho avuto anche come ospite Marco Barusso, che tu penso conoscerai, chitarrista, produttore. E, allora, come ospite stavamo parlando un po' anche della musica del rock inserito nella musica italiana, perché io sono amante della musica cantata in italiano, però mi sono confrontato un po' con Marco Barusso su questo e lui mi ha risposto così, che me lo sono segnato. Se vuoi fare rock in Italia, devi farlo comunque solo in lingua anglofona, altrimenti è un'altra cosa. Guarda, sì, Gil, io come ti dicevo, il fatto di esserci confrontati con il pubblico inglese o di altri paesi ci ha fatto rendere conto che intanto proprio esprimersi in inglese ha la possibilità di avere più audience, ma non ai fini commerciali, perché chi scrive una canzone ha il desiderio di condividerla. Quelli che dicono io scrivo per me ci credo poco, se scrivi per te non lo pubblichi un disco. Nel momento in cui lo pubblichi speri che più persone possibile possano raccogliere il tuo, la bottiglia famosa col messaggio. Quindi il fatto che comunque io ho studiato in una scuola moderna di musica legata alla chitarra elettrica era un po' un binomio, penso, quasi inscindibile. Quindi rock chitarristico cantato in inglese è quello che faremo ancora. Non è escluso che poi uno un domani possa, con determinati artisti e in determinate situazioni, fare anche un cantautorato, ma esci un po' da certi stili, dai brani come Hendrix Funk o come The Martian, lì siamo nel mondo modale, alcuni hanno nominato, io non lo dico io, non l'ho detto, hanno detto a Gio Satriani, insomma lì è proprio specifico, devi acquisire delle competenze e che non risulti copiato, scopiazzato o emulo di... è difficile farsi influenzare e rimanere originali, specialmente in un mondo, in America, quello che arriva... Io mi sono reso conto che in Italia è molto conosciuto il rock inglese, le band inglesi, quelle americane, forse un fatto proprio geografico, la distanza, quello è proprio un altro mondo. Il livello di preparazione che hanno gli artisti in America, parlo anche di chi recita, è molto molto più serio, molto preso molto più seriamente. E pensa che Marco Barusso ha fatto cantare Enrico Ruggeri in versione rock? Che molti hanno detto, ma tu non riuscirai a fare cantare Ruggeri rock? E invece lo ha fatto, è anche una bella canzone certo. Sul suo progetto The Price. Volevo chiederti chi sono i grandi rocker italiani di oggi, escluso Salini ovviamente. Di oggi qualcuno te l'ho nominato poco fa, insomma, di oggi, ma nel senso che vengono da ieri e ancora stanno sulla, sicuramente fratelli Marino e Santo Severini, c'è ancora qualcosa forse che si muove. Io non ho avuto modo di ascoltare ancora i suoi lavori da solista, parlo di Omar Pedrini. Io ti posso parlare delle mie influenze. Sì. Io ho ascoltato tantissimo Gang, Negrita, almeno fino al 98, i Timoria, tantissimo, e il prog italiano, Banco, PFM, Orme, Bennato, De Gregori, Gabriella Ferri, cioè, tutta roba. Adesso band nuove non le ascolto perché non le conosco, non per una questione di essere uno snob, perché c'è talmente tanto, come nei classici, come nella letteratura, che uno poi avere il tempo di cercare la chicca o se c'è una band che fa delle cose. Io attingo da quelli davvero grandi, cioè io Jimi Hendrix lo ascolto quasi quotidianamente, è un riferimento assoluto, ma lo leggo di continuo nelle recensioni, nelle interviste che leggo, e la mia attenzione è spostata verso il rock americano, verso la chitarra funk. Non c'è più quel cosa di devo suonare tantissime note, fa un assolo lirico. Ascolto adesso i chitarristi come Frusciante, piuttosto che Tommy Bolin, che secondo me è molto sottovalutato in Italia. Gente che suona la chitarra ritmica funk, insomma, questo è quello a cui io voglio dedicarmi. Allora, il tempo mi corre, Andrea, io voglio tassativamente far ascoltare tutte le tue canzoni che abbiamo programmato, perché ci tengo troppo. Allora, il prossimo brano lo fai sentire in acustico, e The Moon, vuoi presentarlo un attimo? The Moon, come tutto l'album Lampogamma, ha uno sfondo ecologico, anche se come estremizzazione lo spazio cosmico è il riferimento, e ispirato dalla luna che vedo sospesa sulle mie montagne, una canzone che parla di retenzione, comunque anche qui della capacità dell'uomo di riavvicinarsi alla natura, perché davvero stiamo vedendo quello che succede con i cambiamenti climatici. Sembra retorica, ma è davvero importante, insomma. Certo. Tutto Lampogamma gira intorno a questo. Va bene. Ti apro il microfono. Grazie. Vai con la musica. Cloud is falling down. Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Andrea, allora non posso non chiederti di Sanremo Rock. Perché è stata anche questa una parentesi bella del sì, tuo percorso, bellissima, no? Inaspettata. Io ringrazio mia moglie Arianna che mi ha detto: Andrea, proviamo, iscriviamoci, c'è una spesa irrisoria di iscrizione. L'abbiamo fatto così, non pensandoci su neanche poi un secondo. Invece dopo qualche tempo abbiamo partecipato con il brano Distant Planets, che è la canzone che incarna tutto l'album, insomma è l'album, che poi di fatto gli album a volte c'hanno quelle cose. Che lo ascolteremo alla fine. Sì, e niente, ci hanno contattato l'entourage di rimanendo, noi siamo rimasti perché hanno speso già all'epoca delle parole di elogio e abbiamo fatto, quindi la prima selezione è così, sul brano. Poi abbiamo fatto le selezioni per il Lazio che sono dure perché c'è Roma che insomma è una fucina, Roma fa 6 milioni di abitanti, quindi noi tra l'altro abbiamo fatto, quindi vedi la ciclicità che ci riporta ai Pelle Rosse, abbiamo fatto la nostra selezione in un club che era stato chiuso per anni, il Groovy a Terminillo, dove avevamo fatto il primo singolo, dove avevamo girato la canzone del Lupo. Siamo passati di diritto insieme, abbiamo affrontato band insomma di gente che suonava, siamo stati contenti di confrontarci in maniera, devo dire, gli artisti sono stati tutti pacifici, collaborativi. Da lì, semifinale, direttamente all'Ariston, lì lo scontro è stato duro, è stato pesante perché erano previsti 3 giorni, invece siamo stati lì una settimana, che sono risaltate di un giorno tutte le esibizioni e la premiazione, quindi c'erano i componenti di 120 band in giro per la città, abbiamo invaso, che facevano i conti con le carte di credito, alberghi, prenotazioni. Devo dire che è successa una cosa strana e poi dopo abbiamo capito, però insomma io quando ho suonato in giuria c'era c'era un produttore americano, un chitarrista che no, inglese, adesso non mi ricordo il nome, e uno ci disse se ci fosse stato lui sarebbe andato forse diversamente, ma questo certo, noi non abbiamo fatto nessuna, assolutamente, quando ti metti in gioco non era il primo festival che facciamo, c'era credo, non mi ricordo, però insomma è finita la nostra esibizione e è sceso un silenzio che noi non sapevamo come interpretare. Fatto sta che poi sono stati valutati artisti, secondo loro più sono andati avanti, noi siamo arrivati alla semifinale con gioia perché siamo arrivati lì con le nostre forze, abbiamo suonato Hendrix Funk con un volume che è il prossimo brano che ascolteremo e Distant Planet, quindi una bella esperienza. Sì. Tra l'altro, e questo l'ho riscontrato, il Sanremo Rock non è finalizzato solo a chi vince o a chi arriva in finale, se una band suscita l'interesse degli organizzatori gli viene data la possibilità di esibirsi, e noi nel frattempo tra la selezione regionale e la semifinale nazionale ci siamo esibiti al Teatro Atlantic, credo, di Torino, e abbiamo aperto per la band che era la band di Vasco, Daniele Tedeschi, insomma tutta gente che ci ha raccontato, abbiamo cenato con loro, io stavo vicino a Daniele Tedeschi, ci ha raccontato degli aneddoti che potremmo farci 3 interviste, persona divertentissima, non ti dico la caratura artistica perché, insomma, ed è stata una bellissima esperienza quella, il viaggio con la band, con i ragazzi di cui prima parlavamo. E diciamo, per chi non lo conosce, perché è importante passare per Sanremo Rock? È importante perché nel curriculum resta, il curriculum di un musicista è fatto di fatti, quindi io quando ancora studiavo presso l'Università della Musica partecipai, non so se la sai questa cosa, ad una prima europea del maestro Rhys Chatham per 100 chitarre elettriche. Sono due maestri più, cioè lui e Glenn Branca, che adesso credo sia scomparso, che lo faceva anche per 200 chitarre. Io ho suonato all'Auditorium di Roma, Sala Petrassi, per questa prima europea e mi ha fatto curriculum per le altre cose, quindi aver suonato anche all'Ariston. Sono tutte cose, sono tutti tasselli che ti fanno rendere conto che quello che hai fatto è professionale e devi continuare ad impegnarti per restare lì, non andare indietro. Tutto si riduce a quello, il fatto di dire oh, sei arrivato là, mo Quindi è un contest musicale importante. Beh, sì. Per la musica emergente, per chi ha voglia di fare conoscere in qualche maniera. Sì, emergente musica. Non, perché lì abbiamo incontrato gente che stava su anche con l'età. Quello hanno vinto quel festival, tra gli altri, credo, Ligabue, Ligabue sicuramente. Insomma, per noi, cioè, quando un domani ci avrai da raccontare delle cose, potrei dire, sono dall'Aris, sono quelle cose, soddisfazioni. Com'è. Comunque, anche questo per introdurre in pratica le prossime due canzoni. La prossima è Hendrix Funk. Che mi dici di questa canzone? Hendrix Funk è un brano che io ho voluto fortemente, che non è suonato nello stile di Hendrix, sarebbe stato scontato, tranne il solo col wah-wah che ho fatto io. Ed è una canzone fortunata. Io quella canzone l'ho scritta con la chitarra di mio cognato Michele, che è un ragazzo di 15 anni e all'epoca era ancora più piccolo, una chitarra da 50 euro. Stavo lì sul divano, volevo fare un riff funk, così, non sapendo poi realmente quello che... Dopo ho approfondito. E poi col tempo la gestazione del testo è durata tutta un'estate, perché avevo avuto in regalo un libro con le traduzioni, quindi vedi le canzoni come vengono fuori in maniera rocambolesca. E alla fine l'abbiamo impacchettato, questa canzone che ci ha visto impegnato tanto in fase di registrazione, e lì Gian Lorenzi si è messo insieme a me, vicino a me, con calma, e ho registrato poi quella canzone con una Fender Stratocaster di Simone, stupenda, una delle chitarre più belle che ho mai suonato in vita mia, e che potete ascoltare sia nella ritmica. Poi c'è un'altra chitarra che suona lui, che credo sia forse la stessa, che poi è la chitarra che sta nel booklet che lui ha portato in studio per farmi, cioè mi ha fatto un regalo, mi ha detto: guarda, so che dobbiamo fare la foto, mi ha portato questa chitarra, me l'ha data a me, cioè io ho in mano la sua chitarra, che è un Stratocaster bianca come quella che ho anch'io, ma la mia è diversa, standard, di nacere. Quindi mi piace raccontare questo aneddoto, perché se c'è qualche chitarrista in ascolto è una cosa ghiotta. E quindi, però, il messaggio è quello che la stella cometa è passata una volta e ha illuminato tutti. Questo è The Comet, abbiamo aggiunto, questa è la metafora. Sì, che tra l'altro è stata accolta benissimo dalla critica, questa canzone. Allora, io farei ascoltare a questo punto la penultima canzone in scaletta. Allora ascoltiamoci Hendrix Funk di Andrea Salì. In the name of the rising Star. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Ecco, quindi abbiamo avuto modo di assaporare la carica rock di Andrea con questo Hendrix Funk. Alberto, dimmi... Hai girovagato un po' per lo studio? No, io stasera l'ho detto alle foto, ho fatto un po' di riprese, ho ascoltato Andrea, perché è sempre bello ascoltare Andrea, perché ti incolla veramente, è un grandissimo. E, no, non c'è niente da dire, il disco che tra l'altro avevamo anche presentato a Blue Radio Veneto un paio d'anni fa, un disco che conosco benissimo, De Marzia lo uso come sigla, quindi... Diciamo per te che, non è una novità. assolutamente per me è stato un piacere, un onore invece. Infatti io aspetto il nuovo di Andrea. Andrea quando? Fra quando? Ne parlavamo con Giz, c'è qualcosa nell'aria, hai già qualche canzone? Qualche dritta, qualche news, qualche anticipazione? È diverso da Lampo Gamma, ancora diverso. Qualcosa di folk magari, no? Più sul genere di Jack White, quella roba lì, un po' più crudo, funk crudarello, insomma. Ah, ho capito, quindi meno elaborato, diciamo. Sì, forse sì. Sono più garage, più sporco. Sì, probabilmente. Beh, sì. Interessante, direi. Diverso comunque, perché la curiosità è tanta. Quindi è un'evoluzione ancora. Sì, qualcosa c'è che sta da quelle parti, voglio dire. Non è che non ti aspettare che non ci siano chitarre distorte o... Però... qualcosa di nuovo ci sta. E magari qualche partecipazione dei gang? Non è detto che non ci siano progetti in cantiere. Adesso recentemente ci siamo incontrati con Marino, però finché non è tutto delineato non voglio dire cose che poi magari per tempistiche. Certo. Che i gang sono impegnatissimi su tantissimi fronti. Ah beh, immagino. Artisti prolifici e in azione continua. Un esempio da seguire. Tutti le giovani leve. Sì. Beh, io direi facciamo sicuramente. Facciamo un ultimo brano. No, devo chiedergli ancora qualcosina prima di presentare Distant Planets. E tu hai avuto un percorso musicale importante. Io volevo chiederti come l'hai vissuto fino ad oggi e come lo vedi nel tuo futuro. Allora, l'ho vissuto bene a tratti. Se ti dico sempre bene, ti direi una bugia clamorosa. Non è stato sempre facile, specialmente nei momenti di gestazione dell'album. E nei momenti in cui arrivi vicino a delle svolte che poi non arrivano, e questa cosa non dipende da te ma da tanti fattori. Ripeto, la musica adesso ci ha avuto degli stravolgimenti fortissimi, non solo legati alla rete ma legati proprio al tessuto sociale, cioè riesce a prendere piede, a mio avviso, un determinato tipo di musica, perché c'è tra i giovani una determinata aspettativa, e un po', adesso non vorrei fare una cosa retorica, però un po' forse una sconfitta, sarebbe più bello se i ragazzi continuassero come eravamo noi, un po' più a sognare, a sperare. Vedo una certa rassegnatezza, e questo si risente nei nuovi rapper, trapper. Non è una critica, è una presa di... io faccio altre cose, quindi è un momento complicato per la musica. Anche noi che ne facciamo parte non riusciamo a capire bene qual è la direzione da seguire. Non basta avere buone canzoni, buone produzioni, l'abbiamo parlato, è importante resistere, quello sì, questo in tutto, ripetere, la ripetizione, il metodo, la ricerca, non è una cosa. E comunque per noi, per me specialmente, è importante ancora il viaggio, questa meta per me resta ancora lontana, forse è questo che ci mette in condizioni di fare bene il nostro lavoro, nel senso che poi quando arrivi, speriamo un giorno di arrivare e di adesso posso fare solo questo. Noi te lo auguriamo di cuore. A tratti ci sono dei momenti in cui uno si sente stanco, o se non sfinito, fa parte del gioco, insomma, superare quei momenti complicati, ricordarli con un sorriso. Parliamo di Distant Planet. Distant Planet è una canzone a cui sono molto molto legato, alla pari con The Martian, insomma. È molto emozionante. Il tema è quello lì, del riavvicinamento alla natura. Hai parlato prima del video realizzato da Matteo Bianchi. Tra l'altro è un video che è in gara con un festival molto importante per i videoclip. Io non compaio nel quello di Strange Days, mi vedo pochi secondi, si vede di più Emanuele, è lui il ragazzo che legge il giornale al bar, perché quello rispecchia la mia attitudine alla musica, cioè il fatto di pensare al brano, alla canzone, il solo deve rispettare la forma canzone, quindi non sentivo la necessità. Io quando faccio il mio lavoro e incontro il regista che fa il videoclip, gli do carta bianca. 9 volte su 10 va bene, nel senso che è il momento in cui l'artista tira fuori, cioè fare un video dove io mi vedo al 90% non sarei capace, non sarei a disagio. È difficile anche farmi le foto, ti dico la verità, quando devi fare le foto promozionali. Io poi tra l'altro mi sono avvalso di un fotografo giovanissimo, 18enne, Jacopo Gentilini, che è stata una rivelazione, perché ho visto le tipo di foto che ho fatto io poi dal chitarrista di Toto, nero su nero, quindi vedi, dar fiducia. E quindi il video è piaciuto tantissimo, anche Marino Severini mi ha scritto 2 righe quando l'ha visto, ho detto: questo video sei tu, io dovrei essere quel lupo che si vede che ti dicevo prima, che viene fuori alza la testa quando c'è il bending della chitarra, quindi è bellissimo. Bellissimo, vi consiglio di andare a vederlo il video, perché tra l'altro ho realizzato lì lo stesso discorso da una troupe di ragazzi che non so come sono rientrati nelle spese, perché hanno girato a meno 14 gradi, quello sì. Sono le montagne del Gran Sasso, hanno girato 2-3 regioni d'Italia in condizioni, cioè quell'attore lì, Raffaele De Vita, sta facendo strada, tutti quell'entourage di bravissimo. Matteo Bianchi sicuramente ne sentiremo parlare, lavora in America, lavora tanto anche con gli artisti americani, certo. E io l'ho incontrato di persona, abbiamo parlato tutto il giorno delle idee, e lui poi ha fatto ma ha fatto vedere 2-3 cose, non ho cambiato nulla. E poi Raffaele De Vita all'inizio ha quel pianto disperato, sì. All'inizio che sembra è difficile, ti coinvolge proprio, sembra proprio un pianto, sì, vero, disperato. Quello è il passaggio, è un po' quello che avevo fatto su Mamma Roma, che dove si sente, poi oggi è arrivato l'album Dottor Eddie Mr. Hyde anche per te, lì c'è il rumore del traffico e poi c'è il vento, quindi l'isolamento dalla città alla montagna, e lì è un po', visto, c'è quel passaggio dal caos, poi lui sta nel bosco, signore. Allora, molto eloquente. Andrea, purtroppo siamo in chiusura, è quello che ti ho detto prima, qualcosa ho lasciato lì perché il tempo mi corre via, però mi preme far ascoltare la tua musica. Prima però di chiudere, volevo così dare un'indicazione dove possiamo seguirti? Allora, il sito www.andreasalini.com è aggiornato quotidianamente. Adesso so che i siti forse sono un po' meno visitati rispetto ai social. Ci sono 3 pagine Facebook, c'è un profilo personale, ma che è usato come quello per le pagine d'artista. C'è una pagina su Facebook e lì ci sono tutti i dati che rimandano comunque al sito, email. C'è un ufficio stampa che ci segue, quindi reperire informazioni è semplicissimo. Se domani un produttore americano ci vuole contattare e offrirci un contratto, ci trova, gli rispondiamo, insomma. sicuramente. O se un gestore di un locale di Padova volesse farci suonare con un volume da vomito, sicuramente Alberto lo sa. Lo sa bene. È quello. Il rock and roll è quello lì. Io vorrei proprio salutarci e proprio chiudere la trasmissione con la tua canzone. Va benissimo. Andrea. Io e Alberto naturalmente siamo solo felicissimi. Io vi ringrazio voi e sono contentissimo di essere stato con voi. Condividere musica, condividere la tua voce, condividere il rock di Andrea Salini. Ti faccio presentare un attimo la canzone. Allora, dall'album Lampo Gamma, Distant Planets. Grazie Andrea, grazie, buon ritorno e grazie di essere stato con noi. Alberto? Sì, niente, buonanotte a tutti. Ricordo che nella pagina di Facebook nei prossimi giorni metteremo naturalmente il podcast di questa trasmissione, quindi potrete riascoltare la musica dal vivo di Andrea e ovviamente i suoi dischi e la voce di Gilles. Grazie Andrea. Grazie a voi. From home, let you.